It is later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non più. La fabbrica di polli produce, non cuoce, quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli sembra regnare una calma sospetta, Kappa e Drago discutono di etichette. Tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Drago, dimmi. Drago, senti qui. Conoscere la provenienza, il nome dell'allevamento e anche dove il pollo è stato macellato dal 18 ottobre 2005 è possibile. Grazie alle etichette obbligatorie sulle carni bianche. Una misura per cercare di combattere il virus dei polli. Eh beh, certo. Rassicurante. Uno mette l'etichetta e il pollo guarisce, no? Sembra quasi una cura medica, sì. No? Ma scusa, io compro un pollo dal macellaio, il pollo ha l'etichetta, lì, bella vista. Io la leggo, vedo tutta la biografia triste e breve del pollo e che cosa faccio? Cosa fai? Prendo il telefono e chiamo l'allevamento, così almeno dalla voce sento se l'allevatore è uno di cui fidarsi o meno. Potresti anche provarci. Vabbè, ma mi dici cosa me ne faccio dell'etichetta? Cioè, se io do da mangiare ai miei polli i mangimi pieni di oli esausti, dannosi, a buon mercato, e poi gli metto sopra un'etichetta col mio nome e cognome, ma che cosa cambia in sostanza? Non è che chi mangia il mio pollo mentre staziona permanentemente sul water afferra il cordless e mi chiama per farmi partecipare al suo disastro intestinale, no? Allora smettiamolo con sto fumo negli occhi dell'etichetta. Chi controlla se l'etichetta dice la verità? Chi può giudicare con un'occhiata migliaia di polli usciti da un allevamento? Chi regge la baracca? La fabbrica di polli! Ciao, sono il fantasma di un pollo macellato. La mia biografia è scarna. Sono nato nella fabbrica di polli e dopo 7 settimane di una specie di vita impossibile sono stato macellato, sempre nella fabbrica di polli. Non ho fatto niente in quelle 7 settimane. Non ho fatto proprio niente. Non ho mai avuto fame, freddo. Ho solo avuto tanta paura. Sulla mia etichetta dovrebbero scrivere nato e morto in 7 settimane. Ha avuto tanta paura. Tanta, eh? Lo sai che il voto è una delega da dare a un tuo simile, e in quanto simile lui non ti fregherà, perché il suo bene è uguale al tuo. Ma il pollo è povero e vota quello ricco, guardando il piatto dicendo un micifico. Il pollo è debole e vota il leone, che se lo mangia in un solo boccone. E mentre muore ripete non è male, lui mi ha promesso in dono il funerale. E non è vero che è andato tutto storto, se posso avere lo sconto anche da morto. Sì, tu hai una voce che va bene. Sì, sì, sì. Secondo me tu ce la fai a catturare dei polli. Ce ne sono un mucchio, aspettano solo di essere catturati. Però deve sembrare che li aiuti, capito? Non devono accorgersi di niente, nemmeno di essere dei polli, capito? Che sono dei polli, se ne devono accorgere dopo un bel po', quando gli abbiamo spillato tutto. Allora, i pensionati in genere spendono la pensione in una giornata. Durano 2 o 3 mesi così, poi smettono, perché o si ammazzano oppure i parenti li interdicono. È chiaro? Le casalinghe invece prosciugano i soldi del conto in comune col marito e poi finiscono al pronto soccorso per lesioni multiple, oppure da una sorella che abita in campagna, così per riprendersi. per nascondersi. Hai capito? I ricchi invece sono quelli su cui puoi andare tranquillo. Se becchi un pollo ricco, è la pacchia. Quello lo devi centellinare. Gli devi fare come un buchino piccolissimo da fuori e cominciare a succhiare da lì, fino a svuotarlo del tutto e a renderlo solo un'impalcatura. Quando si accorge di essere stato un pollo, oppure quando gli altri glielo fanno notare, è troppo tardi. E se cerca di ribellarsi, si rompe in tanti pezzettini. Hai capito? Hai capito? Tu fatti dire delle cose. Appena chiamano, cerca di capire che tipo di persone sono. Non essere mai totalmente negativo, ma neanche totalmente rassicurante. Devi sempre trovare l'aggancio per un sequel. Le carte le usi o improvvisi? Improvvisi? Ottimo. Quelli che improvvisano sono il meglio. You are the cattle. And we are the keepers. Rago, mi sono informato e non ho buone notizie. Ma cos'è successo ancora? Ho scoperto che i polli qui sono nutriti a feci. Mamma mia. Sì, resti di altri polli tritati e pesce. Che menù, eh? E non solo, i pesci mangiati dai polli sono pesci nutriti con escrementi degli stessi polli. C'è una specie di loop, una specie di cortocircuito alimentare molto inquietante. Il cortocircuito alimentare. Tenente Drago, i polli hanno evacuato. No, non ancora, comandante Carlo. In compenso, io sì. Vabbè, ma non è interessante questo. Tenente Drago, i polli hanno evacuato. Non ancora, comandante K. Soffrono di stipsi o stitichezza. Dannazione. I pesci ci muoiono di fame. Quindi anche i polli che devono mangiare i pesci. E quindi anche noi che dobbiamo mangiare i pesci. E i polli. I pesci o i polli? Chickens eat crap. La catena alimentare ha subito alterazioni dadaiste da parte del genere umano. Le mucche mangiano ossa di altre mucche macellate. I polli mangiano resti di pesci che mangiano le feci dei polli. E noi mangiamo tutti quegli animali. Mucche, polli e pesci. Nessuno mangia noi, non c'è niente da stupirsi. Nessuno mangia noi a parte i vermi, che però lo fanno quando siamo già morti. Siamo noi il capolinea solitario e disertato. Il capolinea periferico a cui non scende nessuno. È perché l'uomo fondamentalmente è un dadaista naturale, Drago. Il dadaismo esaltava la casualità della creazione artistica e l'uomo è assolutamente casuale nelle scelte che fa. Sembra che ci sia un cervello menomato alla base di tutto, come se il risultato della somma dei cervelli di tutti gli uomini fosse un povero cervello menomato. Uè, Pollastri, io non mangio mica le farine di pesce, No. Ma cosa credete? Che qua dentro siamo tutti dei ciula? Ma no, Pollo, sbattimento, non siete dei ciula, siete delle vittime. No, gli altri sono delle vittime. Io mangio solo mais e lombrichi biologici che mi arrivano da un fornitore segreto. Ah, fortunato. Sì, il pastone, quello d'ordinanza, lo lascio a Tarek. Vero, Tarek? Pastone! No, Tarek, non mangiare il pastone, è fatto di cose terribili. Pastone! Ma pollo in sbattimento, non puoi avanzare un po' di lombrichi biologici per Tarek? Guardalo lì come è messo. No. Ma dai, non fare l'egoista. Egoist. Egoist. Egoist. Ma non è questione di egoismo, è che a lui piace il pastone, vero Tarek? Pastone. Pastone. Pastone. Sentito. A lui piace. Bastone. Guarda che ha detto bastone. Hai detto bastone? No, per me ha detto pastone. Ma tu cosa ti mischi, Drago? Vabbè, ma hai detto bastone. Bastone. Bastone. Pollo, dagli due bastonate, due roncole. E adesso te lo do io il bastone, E però ci leggo due roncole in cima e te le picchio sul copino, Adesso. Che cosa succederà adesso? Il genere umano è davvero fondamentalmente un grosso organismo dadaista che procede a random verso un progresso inconoscibile? Lo scoprirete solo domani a mezzanotte su Radio 3, ascoltando il prossimo saggistico allestimento di... La fabbrica di polli. La fabbrica di polli produce, non chiude. Barrume. Yeah.